la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:08 primi e 39 secondi. Grazie per l'ascolto diretto in podcast da Oscar Giannino. Vi dico subito che nella trasmissione abbiamo due temi. Uno è il tema, per così dire, italiano, dovuto all'attenzione anche sistematica, lo sapete se mi seguite, se no lo perdete adesso, che dedico all'università e alla scuola nel nostro paese, nella speranza che un giorno la politica dedichi altrettanta attenzione, visto che il problema del capitale umano e della formazione, come mi sentite sempre dire, riguarda non solo chi ci lavora, ma soprattutto la qualità dell'offerta. Ed è un tema che nasce da un certo, diciamo, stupore misto a protesta che negli atenei italiani c'è per la modifica di uno, anzi di due, dei criteri di ripartizione della parte mobile del Fondo Universitario Nazionale con cui si finanziano i diversi atenei. E poiché è convinzione di chi parla, nonché di tutti coloro che si occupano di sistemi comparati molto più autorevoli di me universitari, che nella ripartizione delle risorse nazionali agli atenei bisognerebbe che la parte mobile innanzitutto fosse un po' più importante di quella egualitaria per tutti, ma soprattutto fosse ancorata a misurazioni oggettive di qualità della performance, questa qualità della performance e l'internazionalizzazione, l'attrattività, l'impact factor della ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, l'argomento di cui ci occupiamo oggi è che alcune modifiche intervenute in alcuni di questi criteri ottengono un risultato paradossale, che magari alcuni giudicheranno positivo, ma che contraddice tutto quello che ho sintetizzato, detto fin qui, e che viene di solito indicato come le novità positive che il sistema di attribuzione delle risorse alle università hanno perseguito in questi anni, cioè premiare, incentivare su risultati raggiunti gli sforzi organizzativi della qualità dell'offerta, eccetera, eccetera, delle diverse autonome università. Perché in realtà, come vedremo, si finisce attraverso la modifica di questi due criteriucci per dare di più a chi è in fondo alla graduatoria. E quindi come la mettiamo? A questo però io aggiungo una finestra, ve lo dico subito, e vi invito anche a telefonare, perché magari la prima questione è una questione che può interessare i professori universitari, gli studenti universitari e chi conosce un po' come funziona il mondo universitario italiano, ma ve la spiegheremo. La seconda invece è di impatto collettivo. Noi dedicheremo una parte finale della trasmissione a quello che sta avvenendo a Barcellona e in Catalogna, perché è una vicenda di grandissimo impatto storico e politico, non solo per la Spagna, ma per tutta l'Europa, perché la decisione da parte del governo centrale di Madrid di ordinare, di far eseguire degli arresti presso i palazzi dell'autorità di governo autonomo della Catalogna crea una situazione senza precedenti, gravissima. È vero, il referendum che è stato convocato è indipendentista, chiedeva ai catalani di fare una scelta precisa se la secessione della Spagna oppure no. Su questo c'è una pronuncia contraria della Corte Costituzionale, in realtà anche nella Costituzione spagnola c'è qualche cosa di assolutamente analogo all'articolo 5 della Costituzione italiana, ma per mesi questa situazione è rotolata senza che nessuno se ne occupasse. Sono rimasto senza parole di fronte alla totale inanità dei grandi paesi europei, dell'Unione Europea, e oggi, quando oramai pochissimo mancava il referendum, la decisione del governo spagnolo è andare ad arrestare dei rappresentanti del governo autonomo della Catalogna. Allora io vi chiedo, vi fa impressione? Non ve ne importa nulla? Lo considerate una vega locale? Attenzione, perché come sapete molti paesi europei hanno problemi di autonomismo irrisolto. Nella storia recente italiana, adesso la Lega di Salvini sarà cambiata, sono stati sollevati problemi del tutto analoghi, ce ne siamo più volte occupati, da regioni come il Veneto e così via. La Corte Costituzionale aveva bocciato nel 2015 i referendum indipendentisti del Veneto che erano stati approvati nel 2012. Si voterà in Lombardia e in Veneto 22 di ottobre su quesiti invece coerenti alla nostra Costituzione, cioè la richiesta di un'autonomia rafforzata secondo l'articolo 116, ma resta il fatto che vedere un grande paese europeo che ordina arresti come l'imperial regio governo austriaco ai tempi di Maroncelli e dei carbonari italiani è qualche cosa che tocca la libertà e il diritto all'autodeterminazione di tutti, secondo me. E io sono un po' sgomento che l'Europa non abbia fatto né dica niente di che, lo consideri una bega interna spagnola. Quindi chiamateci su tutte e due le questioni 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Adesso con i nostri ospiti, perché abbiamo chiesto sulla questione dell'università a due rettori di darci la loro opinione, cerchiamo di spiegarvi meglio com'è questa faccenda. Se volete averne un quadro e leggete Repubblica, su Repubblica pagina 19 oggi viene sviscerata, il titolo di Repubblica è: fondi agli Atenei, rivolta dei rettori del Nord, distribuite dal Ministero delle Risorse alle Università, ma è polemica per i nuovi parametri che avvantaggiano il Sud. Non viene premiato chi fa più degli altri in assoluto, ma chi migliora le performance rispetto all'anno prima. In particolare, questi due criteri che sono cambiati, appunto, graduano le risorse premiando coloro che rispetto al livello dell'anno precedente della valutazione la migliorano di più, ma è ovvio che magari il miglioramento partendo da un punto di partenza molto basso finisce per premiare chi comunque la performance complessiva ce l'ha molto bassa. Io non so se dover dire nord e sud, il problema è tra chi fa meglio e chi fa peggio nell'amministrazione delle proprie risorse, perché messa tra nord e sud sembra una polemica leghista, e devo dirvi la verità, cari ascoltatori, non commettete questo errore. Il problema è, siccome c'è una misurazione oggettiva, avere dei criteri di ripartizione che o siano più egualitari o premino di più il meglio, per portare tutti nel tempo a fare meglio. Allora, sono con noi il rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, professor Michele Bugliesi. Buon pomeriggio e grazie di aver accolto l'invito. Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta. E il rettore dell'Università Partenope di Napoli, Alberto Carotenuto. Buon pomeriggio e grazie anche a lei. Buon pomeriggio a tutti. Posso chiedere a Carotenuto di cominciare, perché io quando ho visto la pagina nord contro sud non mi è piaciuto, e quindi innanzitutto chiedo a lei che impressione le ha fatto. Però posso, immaginando e magari sbagliando, che lei sia favorevole a questi due nuovi criteri, qual è la ratio secondo lei di averli adottati, visto che grandi università che da anni e anni perseguono la qualità dicono vabbè, e allora però cosa lo facciamo a fare se poi prendiamo meno risorse di chi ha minori performance delle nostre? Prego, Carotenuto. Non credo, mi permetto, che l'analisi debba essere condotta in termini semplicistici, perché in realtà il sistema è complesso, troppo complesso, su questo siamo perfettamente d'accordo, ma in un certo senso in tutte quante le voci che concorrono alla ripartizione del fondo di finanziamento ordinario c'è sempre un occhio che di anno in anno diventa sempre più rilevante rispetto a quella che è la qualità dell'Ateneo. Quindi il discorso della performance va visto, non è detto, chiedo scusa, che tutti gli Atenei, ma una divisione geografica della qualità degli Atenei io non la prendo proprio in considerazione. Siamo d'accordo, non c'è dubbio. Non esiste, il problema andrebbe visto a mio avviso ovviamente nella sua globalità, esclusivamente in un'ottica di trasparenza. Studiare il fondo di finanziamento ordinario è come sostenere un esame. Ha perfettamente ragione. Io ritengo, però è una mia valutazione personale, che a conti fatti, considerando che il 56% di questo fondo deriva dalla quota base storica, in realtà bisognerebbe ragionare soltanto del rimanente 44%, anche perché... È giusto secondo lei che più del 50% continui a essere legato? Il 50% non può essere toccato esclusivamente perché si modificherebbero talmente gli equilibri all'interno degli Atenei che sarebbe ingestibile poter andare avanti in una direzione che rimette in discussione tutto quanto. Sì. Quindi, tanto per intenderci, se questa quota base non venisse rispettata, i grandi atenei potrebbero trovarsi in enormi difficoltà. Quindi, diciamo che questa parte del fondo di finanziamento ordinario non può essere assolutamente messa in discussione. La rimanente parte, un 20%, è gestito in funzione del costo medio standard dello studente, che come ben sappiamo è una situazione che è quella che probabilmente detta la differenza tra università e università, oltre l'altro 20% che è basato sulla valutazione della VQR e di altri meccanismi premiali, anche quelli credo che non si mettono in discussione. Quello su cui c'è la maggiore dialettica è il 20%, che è un 20%, lo ripeto esclusivamente per dire, non è poco ma non è neanche tantissimo. Così, il 20% dà l'idea, rispetto al totale è comunque il 20% che è gestito sul costo standard. Sul costo standard è una situazione su cui chiaramente c'è una differenza, si ricalca una differenza tra un ateneo che è storico, che ha una docenza che malgrado i tagli si siano stati in tutti questi anni continua a essere rilevante e quindi determina rapporti che in qualche modo mettono in difficoltà i grandi atenei. Questo è un dato oggettivo, insomma, questa è la mia analisi detta in termini abbastanza semplici. Uno dei parametri che ha ceduto il campo e che determina questa polemica a favore di un altro criterio, lo ripeto, che è quello di premiare chi è più salito e ha migliorato le performance precedenti, a prescindere da quale fosse il posto nella graduatoria, per capirci in maniera un po' rozza, e di cui mi scuso con i rettori, è quello dell'internazionalizzazione, però, che dovrebbe essere, non lo so, nel giudizio del professor Carotenuto, è giusto che sia proprio quel criterio a essere penalizzato? Allora, se parliamo di internazionalizzazione, io sono perfettamente d'accordo. Il problema è che non riusciamo a metterci d'accordo su come bisogna misurare questa internazionalizzazione. L'internazionalizzazione è misurata esclusivamente per quanto riguarda il programma Erasmus e la cosa, secondo me, è limitante. Lo dico perché ci sono tantissimi atenei che hanno fatto grandi investimenti nell'erogazione del corso in inglese, quindi hanno potenziato l'offerta formativa. Sì, ci sono state anche molte polemiche, per esempio qui a Milano, di fronte a chi voleva vararne sempre di più, e poi alla fine c'è stata una rivolta. Mi sembra molto riduttivo, perché è inutile parlare di nazionalismo in un mercato globale, quindi francamente io... Però voglio dire, professore, scusi, ma per chi ci ascolta, per fare degli esempi concreti, ma insomma l'internazionalizzazione dovrebbe avere dei criteri abbastanza standard, non stiamo solo parlando della percentuale di studenti stranieri, stiamo parlando di quanti ricercatori spendono la propria dota ERC, che sono le ricerche di maggior impegno a livello europeo, presso un dipartimento di quell'ateneo, eccetera, eccetera. Cioè, sono quante call di insegnanti stranieri si fanno? Queste cose qua, no? Sì, lei sta aprendo però un discorso sull'internazionalizzazione della ricerca. In questo momento il modello è basato esclusivamente sull'internazionalizzazione della didattica. Della didattica. Quindi, diciamo che quello che lei sta dicendo dovrebbe trovare ovviamente una rilevanza nella valutazione della qualità della ricerca. Sì. Il problema, sempre dal mio punto di vista, è che la valutazione dell'internazionalizzazione della didattica è invece misurata forse in maniera non troppo corretta. Andrebbe elaborato un modello ma al CRUI, alla conferenza dei rettori, da anni vi sarete confrontati su questo, non siete riusciti a trovare un accordo? No, guardi, il problema non è l'accordo, quello che proprio nell'ultima CRUI si è discusso, tutte le modifiche che sono state effettuate nel corso degli anni sul fondo di finanziamento ordinario e che hanno sicuramente in qualche modo reso sempre più complessa la comprensione del modello, sono tutte quante venute da mozioni della CRUI. questo me l'ha ricordato il Presidente, che io ho fatto esattamente il suo intervento, ho detto il modello non è più complesso, è diventato troppo complesso, non è più gestibile, non è assolutamente estrapolabile. Ecco. E il Ministero vi dice colpa vostra, no, la verità è che tutti quelli che sono stati, le richieste che sono emerse dalla CRUI sono state recepite da parte del Ministero. Ho capito, però alla fine ecco i risultati. Allora, intanto grazie a Caruto, e sentiamo il rettore di Ca' Foscari, perché Ca' Foscari di Venezia, lo troverete negli articoli dedicati alla sintesi e agli effetti di questo nuovo criterio, è esattamente tra quelli che si considerano a buon titolo obiettivamente penalizzati. Bugliesi, allora il suo punto di vista. Beh, diciamo in merito alla distinzione nord-sud è puramente incidentale in questo discorso. Quello che dobbiamo analizzare è la coerenza di un meccanismo di valutazione e verificare se rispecchia poi gli incentivi che si vogliono dare, o se incentiva correttamente le politiche che si vogliono, si vuole che gli altri mettano in atto. Allora, da un lato questo richiederebbe un quadro di indicatori che si stabilizzi nel tempo, che altrimenti, diciamo, il fatto di modificare gli indicatori anno dopo anno evidentemente sottrae agli atenei la capacità di fare pianificazione. E un anno pianifico perché mi attendo che, perché vedo degli indicatori, le programmazioni che ci vengono chieste, come tutti gli organismi pubblici, sono triennali, faccio una proiezione triennale rispetto alle mie politiche di crescita per incontrare determinati indicatori, l'anno successivo cambia gli indicatori e io devo rivedere la programmazione. Quindi già di per sé, diciamo, la richiesta minima è di avere un set di indicatori che sia stabile. La seconda cosa è la questione della variazione rispetto al valore assoluto. Allora, come lei ha notato, come anch'io ho notato nelle interviste che ho fatto, come anche riportato l'articolo di Repubblica, qui il tema è che con la scelta di quest'anno si è introdotto un meccanismo che premia la variazione di performance rispetto alla misura della performance assoluta. Ora, questo, così come è stato attuato, ha creato delle distorsioni a mio modo di vedere, perché abbiamo completamente sostituito una misura della performance sull'internazionalizzazione con una misura del miglioramento di performance sull'internazionalizzazione, e la stessa cosa per l'attrattività della didattica, l'efficienza, i sistemi didattici. Questo non è ragionevole, ho fatto l'esempio e lo rifaccio. Se siamo in una condizione in cui un ateneo, Ca' Foscari, vale 10, un ateneo vale 5, Ca' Foscari accede a un finanziamento che è doppio rispetto all'ateneo che vale 5. Se Ca' Foscari migliora del 10% e l'altro ateneo migliora del 10%, con un sistema che misura il valore assoluto, ci troviamo la stessa situazione che l'anno successivo e Ca' Foscari riceve ancora il doppio dell'altro ateneo. Se misuriamo solo la variazione di performance, siamo migliorati nella stessa misura relativa al proprio punto di partenza e prendiamo lo stesso finanziamento, cioè la nostra valutazione si equipara e quindi io perdo quella quota. Ora, dove sta il problema? Nessuno nega, e tantomeno Ca' Foscari, che sia giusto riconoscere anche la capacità di chiunque di migliorare, ma questo non può non può sostituire interamente il meccanismo che valuta anche i valori assoluti. Quindi è giusto premiare il fatto che anche che l'ateneo che performava peggio o gli ultimi in classifica, diciamo, stanno migliorando, quel miglioramento va incentivato e va premiato, ma non può questo premio essere a scapito di chi è migliorato altrettanto, però semplicemente si vede sottrarre una quota di finanziamento perché la ripartizione che viene fatta è completamente ribaltata. Questo è quello che è successo quest'anno. Quindi è possibile compenetrare l'esigenza di premiare il miglioramento e l'esigenza di premiare i migliori attuando delle politiche che facciano coesistere i due meccanismi. Quest'anno non è stato così. È quello che quindi, secondo me, va rivisto, è esattamente questo tipo di impianto, per dare la possibilità a chi sta fruendo degli incentivi che ha ricevuto, mettendo in atto politiche, di poterle proseguire, perché altrimenti con Ca' Foscari ha perso sulla quota premiale il 18%, il 20% del proprio finanziamento. E insomma, cioè, evidentemente poi abbiamo un bilancio che è solido, è to- tollerabile, però insomma che messaggio mi viene dato? Ah certo. No, non dobbiamo fare internazionalizzazione? Certo che sì, che, certo che dobbiamo farla. Devo premiare anche chi sta salendo nelle politiche di internazionalizzazione e sta sotto a chi è più avanti? Sì, ma devo avere come risultato di questa redistribuzione un definanziamento di chi sta nelle prime posizioni? Allora, non credo, perché la competizione non è tra me e gli altri treni in Italia. Mi pare molto chiaro quello che ha detto. Io non faccio mistero, conto niente, ma da anni mi batto perché le ragioni, in questo caso pugliesi, prevalgono. Ma c'è una questione che non possiamo fingere di ignorare, perché per esempio sempre su Repubblica oggi il rettore, o meglio la rettrice, come dice Repubblica, di Cagliari, cioè la professoressa Maria Del Zompo, dice no, io ho proprio un'idea radicalmente diversa, più soldi pubblici uguali per tutti, dobbiamo crescere ugualmente, questo è il sistema pubblico dell'università, che la visione da sempre di coloro che dicono moltiplichiamo gli atenei, la mia opinione è che siano troppi, molti dell'università dicono che non sia vero, però insomma basta vedere la carta geografica europea per chi conosce i sistemi universitari, perché vedere che noi abbiamo un po' esagerato, per così dire, con pretese non di specializzazione ma di repliche a bassa specialità, se possiamo dire. Ecco, detto tutto questo, la domanda secca che faccio un minuto a testa a entrambi, ripartendo da Venezia e poi tornando a Carotenuto: chi crede nell'autonomia davvero dell'università non può che avere un dubbio. Se andiamo a vedere le università pubbliche nel Regno Unito o negli Stati Uniti, Berkeley in California per esempio, sono pubbliche, cari ascoltatori, non è che ci sono solo le università private nel mondo della common law, ci sono università, fior di università pubbliche, ma in entrambi quei paesi le università pubbliche hanno una soggettività giuridica che li esclude dal diritto pubblico amministrativo. In Italia no. E questo è un signor argomento innegabile per il ragionamento di chi dice in realtà va bene dare un pochino della parte mobile a premiare chi fa di più e chi fa meglio, ma noi siamo lo Stato e lo Stato è tutto uguale. Si affronterà mai questa questione oppure è del tutto non pertinente secondo il rettore di Ca' Foscari? Guardi, non so se verrà affrontata, diciamo. Personalmente ho le mie idee. Il fatto di considerare l'università il valore aggiunto del sistema italiano e in parte del sistema europeo, in parte però anche minima del sistema americano, di un'università pubblica, è un merito che l'Europa, l'Italia si possono attribuire, ma non vedo alcuna necessità di farlo. Di dell'azionare questo, di trovare una relazione tra questo e il fatto che nel pubblico tutti devono avere lo stesso modo. Cioè, questa è un'equazione che io non capisco. Ecco, d'altro è un tema su cui io e la Maria di Cagliari siamo in costante dialettica nelle riunioni della Croce. viva la sincerità. Che dice Carotenuto? No, dunque, io volevo soltanto fare una piccola precisazione per prima, perché sennò a fine che chi ci ascolta può pensare. Attenzione, guardate che tutto il discorso dell'internazionalizzazione che abbiamo fatto in realtà incide per molto meno del 5%, perché stiamo parlando del 20% del 22%, quindi stiamo parlando dello 0,044, che in base a dei risultati relativi, come diceva giustamente il collega, a un meccanismo su cui io sono perfettamente d'accordo. No, lui, però deve essere fatto in maniera assoluta, non in maniera relativa. Sulla maniera assoluta lei ha ragione, però sulla parte di investimento pluriennale che deve fare un rettore, un senato accademico, gli organi amministrativi dell'università, quota parte, che ci sia 5% in meno fa la differenza su come comportarsi. No, diciamo che il grosso è la valutazione della qualità della ricerca, perché quello rappresenta il 60% della quota premiale. Io credo, mi permetto di dire, che l'ultimo meccanismo messo in piedi della BQR per il quadriennio sia stato sicuramente migliore di quello precedente. Detto questo, io anche questo argomento riguardo alla al totale finanziamento uguale per tutti gli atenei mi interessa relativamente, perché io credo che sia più giusto in questo momento superare un assurdo che il sistema normativo che è stato ultimamente messo in piede limita fortemente gli atenei. Noi dobbiamo avere la capacità, dobbiamo avere l'autonomia di spesa, sì. Purtroppo, cioè, ovvero sia, noi dobbiamo spendere e investire in funzione di quelle che sono le nostre, il nostro bilancio, cosa che in questo momento non ci viene concessa perché, come tutti quanti sanno, abbiamo avuto per 6 anni praticamente una limitazione fortissima per quello che è, sono le spese di investimento in termini di personale docente, sì, e personale tecnico. Sì, chiarissimo, chiarissimo. Questo ne abbiamo anche parlato quando abbiamo fatto le puntate sulla stensione in corso da parte di alcuni docenti per la sessione d'esame. Comunque, io spero che abbiamo dato una visione non troppo tecnica, ma chiara del problema di cui parlano i rettori e i docenti universitari sulla parte mobile di ripartizione del fondo strutturale di finanziamento dell'università. Grazie a Michele Bugliese e grazie a Alberto Carotenuto. Adesso andiamo sulla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati ai 16:41 primi e 2 secondi e passiamo dall'università. Io ringrazio perché molti hanno scritto, quindi in realtà non è un dibattito per addetti ai lavori, ma molti di voi studenti vorrebbero che si trattasse di più, e quello che io posso fare l'ho fatto, a dire la verità. Ma andiamo a quest'altra vicenda che incredibilmente è arroventata da stamattina, ha preso una svolta di cui nessuno può avere purtroppo in tasca la previsione di come finirà, con la decisione del governo spagnolo di Madrid di ordinare degli arresti al palazzo della Generalitat, dell'organo di governo regionale della Catalogna, che gode di una autonomia forte ma non fortissima, non crediate, cioè per chi conosce l'evoluzione nel tempo delle autonomie in Spagna, la Spagna è una grande monarchia nazionale ma che ha una fortissima tradizione nei secoli prima di diventare Stato nazionale di regni locali con lingue e culture locali. Per esempio, sia secondo lo statuto, il primo statuto dell'autonomia catalana che venne nel dopo Franco, quello alla fine degli anni 70, sia quello che è attualmente vigente, cioè quello del 2006, e ecco, l'autonomia finanziaria, cioè quella sulle tasse, sulle proprie risorse, la Catalogna non ce l'ha per nulla, perché dipende dai trasferimenti di Madrid, mentre ce l'hanno per esempio altre regioni autonome come l'Aragona e come soprattutto i Paesi Baschi. Questo spiega la storia molto lunga dell'indipendentismo catalano, diciamo dal regno ventennale di Jordi Pujol dagli anni 80 fino al 2000, ma se andiamo alle ultime elezioni, in cui hanno vinto di misura non sulla maggioranza totale dei voti ma comunque la maggioranza dei seggi, è stato un eterogeneo cartello ma di sinistra indipendentista, per così dire, ed è quello che sostiene, quello che alla testa della Generalità, cioè del governo autonomo della Catalogna, è Puigdemont, l'attuale presidente, che è successivo ad Artur Mas, che aveva vinto le elezioni nel 2010 e nel 2015. È una storia lunga, complicata. Quando la Generalitat ha annunciato per l'inizio di ottobre, per il primo di ottobre di quest'anno, un referendum che chiedesse in maniera definitiva ai catalani volete l'indipendenza o meno, l'annuncio è stato a sorpresa rispetto all'ipotesi di intavolare trattativa per un'autonomia più forte, di cui ci sono i margini visto le altre autonomie che vi ho ricordato in Spagna. Eppure a questo punto tutto poteva avvenire dopo il no della Corte Costituzionale, tranne che immaginare che si procedesse a degli arresti nel palazzo del governo locale di Barcellona. La città vede la gente nelle piazze, adesso vediamo come va il traffico e poi torniamo con l'ospite. la versione di Oscar. Eccoci tornati, 16:45, 55 secondi. La cosa migliore in queste occasioni è trovare un corrispondente che sia testimone, spettatore, analista da sempre di questa questione. Ripeto, è senza precedenti nella contemporaneità. Dovremmo tornare indietro agli scontri tra la Gran Bretagna e Nord Irlanda, perché un grande paese europeo decide di arrestare chi rappresenta un governo che ha proclamato una consultazione. Certo, c'è il no della Corte Costituzionale, ma gli arresti sono la via invece di una trattativa politica. Poi perché il silenzio tombale di qualunque altro paese europeo? La cosa davvero non ci riguarda? Ecco, per questo abbiamo scelto appunto un testimone. Ed eccolo qua, ci ha raggiunto. Io molto lo ringrazio di questo, perché ovviamente è un po' conteso viste le notizie da stamattina che si accavallano da Barcellona. E con il corrispondente in Italia dell'Avanguardia di Barcellona, Eusebio Val. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Eusebio. Buon pomeriggio. Allora, io ho già detto che cosa penso modestissimamente di quello che sta avvenendo. Per me è stato incomprensibile in questi mesi il silenzio dell'Unione Europea, dell'Italia, dei grandi paesi europei di fronte a una situazione che mi sembrava sempre più preoccupantemente avviata al muro contro muro, un braccio di ferro di fronte a una posizione che è nota da mesi dell'autorità di governo catalana, di fronte alle prese di posizione della Corte Costituzionale e così via. Certo, gli arresti non me li aspettavo alla sede del governo regionale, ma qualcuno davvero aveva messo in conto che la Guardia Civile arrivava e faceva questi arresti lì? Io credo, per me non è stata una sorpresa, è stata una giornata triste, veramente, come catalano, che le cose sono arrivate fino a questo punto, ma credo che lo Stato, il dovere dello Stato era reagire, no? Davanti a questa situazione di violazione delle leggi, dello Stato di diritto. È evidente che c'è un conflitto politico, no? Dietro. Ma qui in Italia, per esempio, un referendum come questo sarebbe impossibile, no? L'articolo 5 della Costituzione italiana dice che la Repubblica è una e indivisibile, è la stessa situazione in Spagna, no? Allora credo che alla fine dobbiamo trovare un accordo, una negoziazione, ma lo Stato non poteva rimanere senza fare nulla. No, senza fare nulla è un conto, però quando lei stesso dice, poiché la Catalogna ha una storia di sostegno di massa, prima l'autonomia, poi l'autonomia rafforzata, poi all'idea di decidere anche sull'indipendenza, di questo era il referendum, sì. Il tema, e quindi è un fenomeno storico rilevantissimo nella storia della Spagna moderna. Allora, io penso che per arrivare a una trattativa, che ne so, un'autonomia ulteriormente più forte, bisogna trattare. Se un governo inizia a dire arresto i bracci destri dei ministri dell'autorità regionale, lo spazio per la trattativa sparisce. No, sì, è difficile per me parlare su questo, no? Perché io sono catalano, ma c'è un governo regionale che organizza un referendum di secessione, di modo illegale, che deve fare lo Stato centrale? Allora, e ha avvertito una volta e un'altra volta, questo non è legale, questo se no perde tutta l'autorità. È vero che la negoziazione era 2-3 anni fa, quando era il momento di negoziare, esatto. Ma adesso, davanti a questa sfida, questo atteggiamento del governo catalano, del Parlamento, che non rappresenta tutti i catalani, che questo lo dobbiamo, non è che questo governo catalano rappresenta tutti i catalani, rappresenta il 48% dei voti, no? Che questo è l'errore, che con il 48% dei voti nelle ultime elezioni hanno fatto questa politica come se tutta la Catalogna fosse dietro loro. No, ma infatti loro dicevano facciamo un referendum, ma a questo punto i partiti che sono da sempre contrari all'idea di un referendum secessionista, cioè oltre ovviamente al Partito Popolare di Rajoy, anche il Partito Socialista di Sanchez e Ciudadanos, le reazioni di stamattina sono di sostegno agli arresti o c'è qualche dubbio rispetto al tono di Rajoy, che è stato fermissimo, ha detto io sono dispiaciuto ma non ci si può fare nulla, ma invece Socialisti e Ciudadanos sono d'accordo? Ciudadanos credo di sì. Ciudadanos è nato come partito politico in Catalogna per andare contro gli indipendentisti, contro i nazionalisti catalani. Socialisti hanno più dubbi perché loro non, per loro è difficile di dare supporto a Rajoy, no? È una questione politica nazionale a quel punto, essendo all'opposizione. Esattamente. Ma, e Podemos è sulla linea indipendentista o semplicemente decidete ma saremo favorevoli al referendum? Chi? I socialisti? No, Podemos. Ah, Podemos ha un atteggiamento molto ambiguo, no? Come il sindaco di Barcellona, Ada Colau, che da una parte dice sì, sono a favore del referendum, ma non lo considera un referendum, è una cosa molto strana. Dice è una mobilizzazione popolare, no? Lei sa che i votanti di Podemos sono spaccati, no? Sono spaccati, una parte in Catalogna sono indipendentisti, altri no. È una situazione molto complicata e la tragedia è che la società catalana è spaccata. Non è soltanto un conflitto tra gli indipendentisti catalani che hanno molto supporto popolare, questo è vero, si vede nelle manifestazioni. Non è solo questo conflitto, è anche una frattura interna della Catalogna, no? Di molta gente che non si manifesta ma sono contrari a tutto questo processo fatto in questo modo. Sarebbe un altro discorso di fare un referendum legale, accordato, ma fare un referendum illegale secondo le leggi spagnole per una secessione non si accetta, questo è il problema. Due domande a cui può dare risposta solo chi è catalano e conosce bene la vita politica del proprio paese, anche le radici di questo sentimento che, ripeto, in Catalogna è una parte importantissima, secolare. Però la prima domanda è: possiamo essere ragionevolmente sicuri che si eviteranno violenze? Purtroppo no, purtroppo io non so, credo che un fattore, il fattore sorpresa sconosciuto è stato presente. Io quando sono andato a Barcellona diverse volte negli ultimi anni, negli ultimi mesi, sempre ho chiesto questo a persone autorevoli, persone direttore del mio giornale, e veramente nessuno sapeva come finisce questa storia, no? E fino a dove si arriva, questo è preoccupante, perché una volta che c'è gente protestando nelle strade, davanti ai ministeri, davanti alla polizia, tutto è possibile. Io mi auguro che se qualcuno perde la calma, stamattina c'è stato un momento di frizione quando la Guardia Civile usciva da uno dei palazzi del governo con alcuni arrestati, per fortuna non è successo nulla, però basta che qualcuno perda la calma. E anche c'è l'altra cosa, che c'è la polizia catalana, che la polizia catalana a chi obbedisce. Esatto. Allora, loro devono obbedire i giudici, no? Ma dall'altra parte il direttore della polizia fa parte del governo catalano, allora un atteggiamento totalmente diverso. È molto complicato anche per la polizia. Un'ultima domanda: ma come mai né Madrid, forse Rajoy lo capisco, ma neanche il governo più importante della Catalogna ha chiesto un'azione internazionale prima di arrivare al braccio di ferro? Beh, il governo della Catalogna ha tentato di trovare supporto esterno, ha aperto per esempio qui a Roma una delegazione, ha tentato di trovare alleati, una mediazione ancora no, ma di coinvolgere altri paesi certamente, ma è difficile, perché io non vedo che altri paesi europei che sono soci e alleati della Spagna possono dare supporto a questo processo. Cioè, purtroppo ci tocca concludere che ciascuno potrebbe avere, perché c'è chi ha problemi di autonomismo a casa sua, che poi potrebbe essere, per così dire, un contagio che si estende. Comunque, io ringrazio Eusebio Val per la sua testimonianza, invito tutti a seguire con grande attenzione questa partita, è un partito in un grande paese europeo, vicinissimo a noi. Io mi auguro che prevalga la ragionevolezza, ma non ne possiamo purtroppo essere sicuri. Gli arresti io non li avrei fatti, sottolineo 10 volte questa cosa. Grazie Eusebio Val. Ecco, e l'ultimissima notizia battuta dalle agenzie 5 minuti fa è che unità antisommossa della polizia spagnola hanno preso posizione davanti alla sede del partito indipendentista di sinistra CUP a Barcellona. Il CUP è la parte più radicale dell'indipendentismo, e riferisce il periodico online. Speriamo che tutto resti nell'ambito di azioni senza violenza, perché ripeto, la spirale a quel punto diventa incontrollabile.